Della finanza sono i santoni, del due di denari, conduttori e padroni. Se vuoi trovarti dei bei soldoni tra le mani, ascolta i consigli di Meazze La Rosciani. Se la borsa crolla e lo spread sale, tu non temere, loro ti sapranno consigliare. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine, le circostanze. E ci siamo cascati pure noi, come due pesciolotti. Adesso proprio prendo la scaletta e me ne vado, e poi qualcuno mi deve correre dietro. Non so se Marco Lombardo deve rincorrermi per tutta sì. Milano. Un po' come ha fatto Nancy Pelosi con il discorso del presidente Trump. Adesso guarda, a Sanremo si è consumata un po' la stessa situazione. Me ne vado, ma perché cominciamo con questa allora oramai epica litigata tra Morgan e Christian Bugatti in arte Bugo? Perché? Perché siamo un po' perplessi per il fatto che stamattina le associazioni dei consumatori si occupino solo di questa vicenda, e non solo, si occupino a vario titolo di tutte le questioni legate in qualche maniera al Festival di Sanremo, le questioni economiche ovviamente. E siccome ci sono tanti problemi che attanagliano la vita degli italiani e che preoccupano gli italiani, ci chiediamo perché Codici, Codacons e tutte le altre debbano appunto concentrare la loro attenzione su questo. Però dicevo, ci siamo cascati pure noi come dei pescioloni, ma che cosa è successo? Che per esempio sulla canzone di Morgan e Bugo sì, dovrà cioè Marco pronunciarsi Castoldi e Christian Bugatti. Sì, vabbè, a Sanremo li conosciamo tutti come Morgan e Bugo, anche nella canzone. Vabbè, sì, Bugo diciamo che non è che fosse proprio questo... Forse aveva meno notorietà che rispetto a quanto sei sempre al signor Castoldi, politicamente corretto, al maestro Castoldi. Ma perché sono finiti pure la Corte dei Conti? Ma ci avranno no. da fare dell'altro lì, io dico, scusa. No, non è così. Allora, dunque, la Corte dei Conti dovrebbe occuparsi di un buco, di un buco, secondo il Codacons, perché sì. Il Codacons dice: i cantanti quando vanno a Sanremo ricevono dalla RAI un contributo in denaro, che è una sorta di rimborso spese, 48.000 euro a cantante. Poi poiché lì, in questa famosa litigata, dico famosa, insomma, magari poi qualcuno non l'ha vista, però esatto. Insomma, i due si sono, felice di questo. I due si sono, diciamo così, neanche insultati, proprio hanno litigato sul palco, uno dei due se n'è andato, e questo ha provocato una violazione del regolamento del festival, un danno economico alla RAI. E allora, perché il danno economico? Perché alla coppia è stato pagato appunto questo rimborso spese, 48.000 euro cantante. Allora, di conseguenza, secondo l'associazione dei consumatori Codacons, dovrebbe essere un caso su cui si pronuncerà la Corte dei Conti. Noi restiamo un pochino perplessi, vero sì, Deborah? Esatto, il Codacons per la verità contesta anche la questione dei compensi attribuiti a tutti i super ospiti, non sono trasparenti, in realtà molti hanno già fatto sapere che devolveranno in beneficenza. Però io mi chiedo adesso, a prescindere dalle cifre che circolano, non tutti facciamo lo stesso mestiere, secondo me questo è il mercato e qualcuno chiede un compenso, poi le società che ti chiamano sono libere o meno di accontentarti o no. Sono perplessa del fatto appunto che tutti debbano comunicare che cosa fanno con i propri soldi, su questo sono molto garantista io. L'importante è che non si dimentichino poi questi soldi di denunciarli dove devono farlo. Certo, nei cioè ad documenti esempio, appositi sì, che... sì, di segnalarlo ad esempio a Ruffini, che non è un cantante ma è invece il neo direttore dell'Agenzia delle Entrate, quindi vorrà sapere poi esattamente che cosa è successo esatto. di questo denaro. Non contenti di tutto ciò, un'altra associazione dei consumatori invece denuncia tutta la pubblicità che è andata in onda nel corso delle serate. Anche lì, se molti pensano di, come dire, campare senza niente, non lo so, la pubblicità c'è, gli spot costano tanto, lo dico anche io che lavoro per un'azienda dove effettivamente far passare uno spot pubblicitario non è esattamente una passeggiata di salute, però il mercato è questo, viviamo in un contesto come questo, io spero di avere a che fare anche con persone che guardano la TV e che non siano proprio delle persone inette, che bevono, nel senso, se c'è un prodotto che tu vedi in uno spot pubblicitario può interessarti o meno, ma anche quello serve per garantirsi uno spettacolo di un certo livello. Di fatto, con il boom di ascolti che hanno avuto, hanno ragione loro. E diciamo loro di sì, perché poi la cosa è stata, ha avuto un'eco talmente ampia. Che, bah, insomma, allora avevamo queste quattro notizie, mi pare, esatto. O erano solo tre? Peter, sono quattro forse le notizie. Aspetta un punto. Attacco per portare via un calcio d'angolo, ma invece porta via un bel assist per Moses che vuole Lukaku in area. Lukaku! A me non mi viene da ridere per niente. Ecco, Maurizio Caprino, potresti venirmi a salvare da questa incresciosa situazione nella quale la mi sto trovando? Di Pazzini! Madonna. Pazzini! Fa impazzire il Bentegodi! L'Ellas ripalta la Juventus! Noi facciamo due di denari, vorrei ricordarti, non tutto il calcio minuto per minuto. Ma questo serviva, io l'ho chiesto infatti alla regia, perché questo serviva per introdurre Meteo Borsa, perché sentivo stamani, proprio dalla tua viva voce, sì, ma guarda che il titolo cambiando della squadra di Torino ha avuto un effetto negativo da questo, sì, andamento. Ma non gongolare, perché adesso è meno 0,4%, come fa una lista lunghissima di titoli, per cui non c'è un grandissimo effetto dal fatto che ci abbiate acchiappato in cima alla classifica. 0,4 mi piace anche 2,4, e allora sentiamo il Meteo Borsa. Meteo Borsa. Nostro analista finanziario, meteorologo per un giorno, Carlo Aloisio, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno Mauro e i radioascoltatori. Allora, eccoci qua a raccontare la seduta di borsa, che vedo sta provando a migliorare per Piazza Affari, meno 0,07% rispetto ad un'apertura che era stata in calo un pochino più marcato. Sono più profondi invece i ribassi delle altre piazze continentali, meno 0,4% a Parigi, Francoforte e Londra. Il tema adesso comincia ad essere esclusivamente quello, la quantificazione dei danni provocati dall'epidemia del coronavirus. Fino a qualche giorno fa potevamo dire aspettiamo ancora, vedremo se l'economia riparte, se la circolazione di merci ripartirà, se la vita ordinaria ripartirà. Mi pare che ancora siamo distanti da poter vedere un ritorno alla normalità, e adesso siamo sicuramente più in grado di poter dire che un danno economico ci sarà, vedremo se è circoscritto al primo trimestre di quest'anno. Abbiamo avuto questa mattina un dato che arriva dalla Cina, l'inflazione di gennaio più 5,4%, e poi Standard & Poor's la settimana scorsa che aveva detto, noi abbiamo già più o meno le idee chiare, l'economia cinese rallenterà al 5%, siamo in un ordine di grandezza del PIL di quell'area del 6,8-6,9%, se non ricordo, per cui la revisione a ribasso è piuttosto drastica. Aloisio, commenti ulteriormente questi pochi dati che abbiamo stamattina a disposizione. Nelle sale operative che cosa si dice? Ma allora, cominciamo innanzitutto dalla performance di Piazza Affari, come si diceva giustamente negativa, migliore di alcune altre piazze europee. Diciamo che all'interno del listino spicca la quotazione di Exor, in particolare stamattina, giusto per contrastare la sì, Juventus, come diceva. Aloisio, non ci si metta pure lei stamattina, sì, perché chiudo il collegamento e me ne vado e faccio come Bugo con Morgan. No, ma lì c'è stato il Verona virus. Chiedo scusa perché la cosa invece è molto seria, ma è la battuta che ci ha inviato un ascoltatore, mi sembrava molto carina. Sì. Prego, Aloisio. Allora, io sono bianconero, quindi denuncio. Unisco, sì, esatto, questo segno negativo. Però giustamente, come ha detto Deborah, è migliorato rispetto all'inizio. Detto questo, dicevo, Exor è sicuramente un po' il titolo che sta performando positivamente a Piazza Affari questa mattina, con un oltre 5,5% di rialzo, quindi sicuramente aiuta l'indice in questa performance migliore rispetto ad altri listini. Sì, c'è una cessione in ballo per la holding di casa Fiat, che è la società partner, la società di riassicurazione appunto che Exor controlla, sì. Esatto, quindi è arrivata la conferma dopo vari rumors che c'è una trattativa, e quindi da questo punto di vista diciamo la notizia è stata presa positivamente. Gli altri aspetti direi che sono, ragioniamo molto in termini di medio-lungo periodo, nel senso che ritengo che la fase di grande volatilità che abbiamo visto negli ultimi 20 giorni sui mercati, con un più 2, meno 2 a secondo se c'erano nuovi casi scoppiati di virus ed altro, oppure la sensazione che si potesse essere vicini a una risoluzione con la scoperta di un vaccino ed altro, hanno sicuramente un po' così condizionato nel nervosismo la volatilità al mercato. Credo che questo possa essere un pochino dietro le spalle, a meno che domani mattina non arrivi effettivamente la notizia che la tal società ha in produzione questo antidoto, questo antivirus, e quindi si possa sicuramente avere una risposta positiva dal mercato, che sarebbe estremamente importante come percentuale. Tra l'altro c'è stata anche una grossa speculazione sui titoli del settore farmaceutico nell'ultimo mese, sì. Se andiamo a vedere che anche questo è stato molto importante. Detto questo, dicevo, gli effetti, io credo che adesso si cominciano a fare i conti con quello che possono essere le stime, come diceva giustamente, del più 5% di crescita previsto. Fino a qualche giorno fa sembrava impossibile da questo punto di vista che ci potesse essere un calo, però visto anche appunto il fermo delle produzioni, è sicuramente un dato che può essere attendibile. Nel momento in cui si è fissato questo aspetto, diciamo, quando usciranno poi i dati concreti nei prossimi mesi, lì si vedrà i market mover in base alle differenze azioni, perché dovesse uscire un dato più 5,5 sarebbe positivo, dovesse uscire un dato più 4,5, quindi inferiore alle stime, potrebbe essere negativo per i mercati. Teniamo conto però delle ripercussioni anche a livello mondiale, da questo punto di vista, delle economie dei paesi occidentali. Non guardiamo soltanto la Cina, noi abbiamo un sacco di aziende, io vedo anche in casa con la mia compagna che ha molte diciamo rapporti di lavoro con la Cina e quei paesi, hanno in questo momento da più di 15 giorni bloccato produzioni, bloccato incontri, aree commerciali, le fiere sono bloccate, quindi tutto questo aspetto di cui così un pochino si parla in maniera marginale avrà le sue ripercussioni nei prossimi mesi, questo indubbiamente anche coi dati che avete citato oggi di produzione industriale nell'Eurozona molto in crisi rispetto ai mesi scorsi, sicuramente potrà avere nel corso del 2020 dei riflessi anche sui mercati che potremo avere prossimamente. Infatti, Aloisio, proprio nel giornale radio ascoltavamo questo andamento della produzione industriale, soprattutto anche italiana, che ha segnato un meno 1,3% e nel 2019, che è un brutto dato. Tra l'altro erano diversi anni, 5 anni, che la produzione industriale non segnava dati in negativo per l'Italia. Noi abbiamo questa settimana anche 2 appuntamenti in asta per il debito. Lì è una fase in questo momento, adesso non vorrei essere malaugurante, però è una fase positiva, cioè le ultime aste sono andate tutte con rendimenti in diminuzione. Questa è una buona notizia, magari meno per chi voleva investirci, per i risparmiatori, ma buona notizia per i nostri conti pubblici. Sì, chiaro, per gli investitori diventa sempre difficile trovare delle alternative oggi sui mercati proprio per i tassi che ci sono. Teniamo conto che le aste di questa settimana partiranno con i titoli a breve, i cosiddetti bot, che una volta erano un po' l'ancora di tutte le famiglie sul mercato, e ormai sono riservati soltanto ad istituzionali, perché il tasso di questi bot è comunque in negativo già da qualche tempo, e quindi sicuramente non si indirizza più a un risparmio individuale, cosiddetto retail o familiare. In questo caso, diciamo, il tesoro ha così sopperito questo aspetto con l'introduzione dei cosiddetti BTP Italia. Probabilmente avremo prossimamente anche una nuova emissione nel corso del 2020 di questo prodotto, che ha un tasso minimo garantito più una parte legata all'inflazione. Questo, diciamo, ha un po' sopperito per i cosiddetti retail ai tassi negativi dei bot. Però è chiaro che per il tesoro sicuramente un grosso risparmio. Soprattutto io direi sul medio lungo è stato fatto un lavoro molto, molto buono negli ultimi anni di allungare il più possibile le scadenze, per non trovarsi appunto in situazioni di scadenze molto, molto ravvicinate, che hanno portato un po' di criticità. Se ricordiamo, quando c'è un momento di crisi come tra il 2011 e il 2012, sono sempre i tassi a breve quelli che tendono a schizzare, e quindi quelli sono un po' i sintomi della crisi. Quindi allungare le scadenze, avere più scadenze a lungo periodo da dover arrollare è sicuramente importante. Abbiamo i tassi sulla curva decennale che sono sotto l'1% ormai da un paio di settimane, quindi questo è sicuramente un fattore più che positivo. Tra l'altro, a proposito di debito pubblico, ricordiamo che venerdì Fitch, l'agenzia di rating, ha confermato il suo giudizio sull'Italia con un outlook negativo, quindi il giudizio è rimasto stabile rispetto all'ultima comunicazione. Il prossimo pronunciamento è atteso per il 10 luglio. Detto questo, un ultimo commento a Luisio sui temi delle trimestrali. I fonti che le società italiane stanno diffondendo dagli Stati Uniti. Ancora una volta abbiamo un quadro che appare piuttosto sorprendente in termini positivi. Venerdì abbiamo avuto anche il dato sulla disoccupazione di gennaio, che è leggermente aumentato, ma comunque l'economia americana marcia a pieno ritmo, quindi sponsorizzando completamente l'operato di Donald Trump. Per quello che riguarda l'Italia, oggi abbiamo delle società interessanti: UbiBanca, Banca Generali e Moncler. Per quello che riguarda Moncler, lo sottolineo perché è stata una delle società in queste settimane più esposte agli effetti del coronavirus. È un'azienda che ha una vastissima fetta di fatturato esposta nell'area contagiata, chiamiamola così, per cui che aspettative abbiamo da questo punto di vista? E per il resto, secondo lei, che panorama è emerso rispetto ai conti pubblicati dalle aziende italiane fino a questo momento? Ma allora, due temi estremamente importanti. Da un lato, il settore finanziario nelle ultime settimane è, ricordiamo che è uno dei perdi del FTSE MIB, quindi è stato in alcuni anni un po' un motivo di zavorra delle performance rispetto ad altri indici che avevano recuperato meglio nel post-crisi. In queste ultime settimane, direi, i dati che ci sono stati dai principali gruppi bancari hanno sicuramente aiutato il FTSE MIB a super performare e avere un rendimento ottimo rispetto ad altri indici. Quindi mi aspetto sul settore, anche molti analisti nel corso di quest'anno si aspettavano sicuramente dei dati positivi, e quindi, diciamo, anche per i gruppi che diceva lei, mi aspetto che il trend che si è avuto con i primi dati, appunto, di altre banche possa essere confermato. Sul settore del lusso, ha detto giustamente, non solo Moncler ma un po' tutto il settore ingessato in questo momento per una doppia variabile. Da un lato il bacino di utenti finali dell'area cinese, comunque della zona, si arresta dal punto di vista di richiesta di beni in questo momento, proprio perché c'è una situazione di fermo. Dall'altro lato, molte di queste aziende hanno anche tantissime produzioni o comunque prodotti anche di base che importano dalla Cina, sono fermi anche in questo senso, quindi sicuramente il mercato sconta un pochino questo aspetto ambivalente, e credo che nelle prossime trimestrali soprattutto questo settore potrà essere uno di quelli che marcatamente segnerà un po' questa fase di passaggio. Peraltro, nel momento in cui si sbloccherà tutto, avremo anche poi un incremento e un'impennata, perché la richiesta di beni e l'importazione di materie prime dovrà in pochissimo, in un ciclo brevissimo, andare a sopperire tutta questa mancanza che c'è stata in questa fase. Grazie a Carlo Aloisi. Intanto stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore, Marco, che ci racconta: lavoro in una ditta tessile del Comasco, la produzione è quasi ferma e a rischio tutta la linea primavera-estate, le ripercussioni si vedranno anche più avanti. Grazie a Carlo Aloisi per essere stato con noi. Noi abbiamo un giornale radio del risparmio, sì. Certo, intanto volevo ricordare che, come promesso, oggi parliamo di autovelox, perché, cara Deborah, noi nel segnalare la indicazione di un ascoltatore che si lamentava dell'utilizzo dell'autovelox in realtà solo per consentire al comune di fare cassa, ecco, abbiamo scatenato veramente una divisione, che è quella tra Guelfi e Ghibellini, al confronto era Disneyland, e adesso abbiamo proprio due partiti. Oppure allora, i pro Morgan e i pro Bugo. Ah sì, potremmo anche metterla così. E allora abbiamo quelli che sostengono, ma non adesso la zappa sui piedi proprio, dai, vuoi continuare questa cosa? Sarà la quarta volta che mi chiedi di calcio. Allora, dicevo, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, fare domande, portare segnalazioni sulla vicenda autovelox e tutor, perché mettiamo un po' insieme questi, sì, meccanismi di controllo, per così dire, automatizzato, oppure 349 238 6666 per messaggi, sms e whatsapp. State tranquilli, abbiamo il massimo esperto della materia, perché è già qui con noi in studio, Maurizio Caprino, esperto mondiale della vicenda tutor e autovelox. Bentornato, Maurizio. Grazie. Ecco. E adesso, a seconda dell'argomento, tu sei l'esperto mondiale. E adesso? Giornale Radio del Risparmio. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Dai, adesso te ne vai, fai il buco della situazione, dai adesso, no! Benzine. Comunque sarebbero 3 a 1, no 2 a 1, dai su, anche il VAR. Meazza, buongiorno, non ci fai per nulla ridere, quindi pensa ai contenuti della tua trasmissione, lascia perdere il calcio, vai! Però ragazzi, non è che perché siete juventini dovete sempre per forza vincere. Ribadisco, non siamo né a tutto il calcio minuto per minuto né a tutti i convocati, siamo a due di denari. Chiudiamola qua. Esattamente, per tutto il resto c'è Carlo Genta, mi viene da dire. Allora, prima notizia, sempre in argomento, per così dire, viabilistico. Motoristico. Sì. Carburanti. Sì. Nel 2019 automobilisti e imprese italiane hanno speso per l'acquisto di benzina e gasolio auto 58 miliardi. È un'elaborazione del centro studi Promotor che sulla sua banca dati su consumi e spese per carburanti auto in Italia ha realizzato appunto questa rilevazione. La spesa è però inferiore del 2% a quella del 2018 e la contrazione, cara Debora, deriva da due fattori. Calo del prezzo medio ponderato alla pompa, che per la benzina è stato dell'1,9%, del gasolio dello 0,8%. Mi aspetto istantaneamente una raffica, una selva di messaggi che diranno il contrario, che, cioè che ci diranno che non è vero, che questo è solo il valore medio. L'ha detto il centro studi Promotor. Il secondo elemento che ha inciso favorevolmente è però, purtroppo, viene da dire, un calo dei consumi dell'1%, che non è dovuto a una contrazione del traffico, ma al fatto che la sostituzione di veicoli rottamati con veicoli nuovi ha comportato un'apprezzabile diminuzione dei consumi. Tutto sommato sembrerebbe una buona notizia vista così. La approfondiremo magari anche più tardi con Maurizio Caprino. Allora, tra l'altro, in questi giorni il prezzo del petrolio è continuato a scivolare proprio perché si è notevolmente ridimensionata la domanda dalla Cina, ma in realtà, secondo quello che ci racconta Quotidiano Energia, ci sono ancora delle giornate piuttosto di calma piatta sulla rete dei carburanti, sulla rete appunto carburanti italiana, e quindi ancora una volta confermiamo questa condizione di vischiosità. Se il prezzo del petrolio aumenta, il prezzo alla pompa si adegua immediatamente, al contrario invece sta lì fermo e prima di vedere dei ribassi ci mettiamo sempre un po'. Detto questo, così come oggi abbiamo accontentato tutti gli ascoltatori che hanno espresso le loro considerazioni sulla questione dell'autovelox a vario livello e in varie modalità, domani accontenteremo tutti coloro, e sono veramente in tanti, che ci chiedono di affrontare la questione del bonus facciate, perché quel famoso sconto importantissimo del 90% per le spese di ristrutturazione delle facciate dei nostri edifici, degli edifici dove abitiamo, in realtà non abbiamo ancora le istruzioni per poter portare avanti questi lavori, che sono dal punto di vista economico evidentemente molto impegnativi, e poi ricordiamo che devono anche passare attraverso delibere articolate da parte dell'assemblea di condominio, quindi prima di partire un po' ce ne vuole. Se non c'è le istruzioni per poterlo fare, questo sta bloccando ovviamente le iniziative di molti edifici, di molti condomini, e allora domani dovremo necessariamente, Mauro, tornarci, così come lo fa oggi il Sole 24 Ore. Sì, perché appunto ci aspettavamo qualche indicazione in più da Telefisco, è arrivato molto poco in materia e quindi avremo modo di affrontarlo con gli esperti. Per intanto oggi una pagina del Sole 24 Ore fa il punto della situazione anche con quello che si può al momento comprendere. A proposito di case, c'è una vicenda curiosa che viene riferita non dal Sole 24 Ore questa volta, ma dal Corriere della Sera. Sì. Perché un signore che aveva acquistato, cioè pensava di aver acquistato la casa all'asta. E ci abitava lì tranquillo dal 98, vedi tu, era tranquillo sì ad averla comprata. E invece no, perché per una serie di mancati depositi, mancate registrazioni, pazzesco, eccetera, il signore in realtà e i suoi eredi hanno sempre pagato, onorato tutte le scadenze pagando quello che c'era da pagare. E invece la casa non risulta mai essere stata trasferita, la proprietà della casa acquistata a un'asta fallimentare non risulta mai essere stata trasferita. Risultato: se ne erano già accorti una volta, avevano cercato di in qualche maniera sanare la situazione, dopodiché non è andato a buon fine neanche questo tentativo, per cui per la seconda volta hanno dovuto scoprire che effettivamente non c'era stato nessun decreto di trasferimento della proprietà. Anche perché gli eredi del fallito, per così dire, hanno fatto causa all'attuale occupante dicendo che la casa è loro, e in un modo abbastanza paradossale le carte direbbero così, cioè che la casa è loro. Il problema è che è stata acquistata 27 anni fa. Esatto. Adesso, e quindi diciamo, forse uno fa anche fatica a pensare che la casa non sia più sua. A farsene una ragione. Devo dire che oggi il meccanismo delle aste sarebbe in teoria più trasparente, ci sono addirittura delle agenzie immobiliari sul mercato che si stanno esclusivamente specializzando in questa modalità di compravendita. Qualche anno fa era effettivamente più complicato accedere a questo mercato, e quindi qualche residuo ce lo possiamo immaginare che ancora ci sia in circolazione. Senti, è tardissimo, sì, io direi di di fare così, Peter. Dillo a due di denari, ce lo teniamo per domani. Va bene. E allora andiamo subito con la pausa. Io cosa devo fare? Devi fare le borse, Deborah. E dopo andiamo subito a Maurizio che già li scalpita. Se no si ripassa un'altra volta tutto il codice della strada, poi ce lo recita come una preghiera, dai. Due di denari, una cosa seria, per i vostri soldi, non i nostri. Due di denari. Solamente sulla Romea sono stato multato per eccesso di velocità da parte di tre diversi comuni. Se io avessi pagato subito, la sanzione sarebbe stata modesta, inferiore ai 50 euro. Mi sembra quasi strizzare l'occhio, paga subito che ti passa. Mai visto l'autovelox segnalato, non credo sia possibile che non siano in corsi altri automobilisti in questa disavventura. 10 verbali da 64 euro l'uno per una velocità di 81 con il limite 80. Facciamo uno sciopero bianco, tutti a 50 all'ora rispettando i limiti. Vediamo poi come si intasa tutta la viabilità nazionale. In Italia, siccome hanno bisogno di gettito fiscale continuo, ognuno che acquista una macchina diventa una vacca da mungere. Perlomeno che tolgano il limite sull'autostrada come in Germania, se no mi compro veramente il monopattino elettrico. Gli autovelox servono solo a battere cassa, nient'altro. Volete tutelare i cittadini? Mettete i dossi in maniera tale che siamo costretti a rallentare. Ma dove li nascondono sti autovelox lungo le strade in cui gli automobilisti non riescono ad individuarli? Allora, guarda, visto dietro che le piante abbiamo rievocato un po' dei messaggi, solo una piccolissima parte dei tanti messaggi che ci sono arrivati. Sì, è stato un inferno, Maurizio, dal credo. Allora chiediamo a Maurizio Caprino, riepiloghiamo l'autovelox, parliamo dell'autovelox di quello comunale, per dir così, perché poi ci sarebbe anche quella polizia stradale che può fare degli appostamenti mobili, mi sembra di ricordare. No, non c'è una differenza rispetto a chi gestisce l'apparecchio, anzi c'è un principio generale per cui anche quando l'apparecchio è preso a noleggio in forme strane deve essere comunque a disposizione degli organi di polizia. La differenza è sul tipo di strada e sul tipo di apparecchio, se mobile oppure fisso, nel senso di postazioni che funzionano da remoto anche 24 ore su 24, quindi è questa la differenza. L'organo di polizia non fa differenza salvo per un caso, cioè il fatto che i comuni possano andare a multare anche su strade extraurbane. Allora lì ci sono state varie sentenze, insomma un po' di tira e molla, però insomma il criterio più diffuso adesso, più accettato dai giudici, è il fatto che se anche la strada extraurbana di grande comunicazione dell'ANAS funziona, diciamo, ricade nel territorio comunale, i vigili di quel territorio, di quel comune, possono operare. L'unica riserva è l'autostrada, lì c'è la polizia stradale e non si discute. Ma devono sempre essere segnalati questi meccanismi, esatto, di controllo? Sì, con una sola eccezione, cioè quelli che sono poi pochissimi, ce l'ha una quarantina di comuni, quelli montati su auto di servizio e capaci di funzionare quando l'auto è in movimento. E sono dei radar fondamentalmente, che sono anche molto temibili perché riescono a immortalare il trasgressore anche quando viene in contromano rispetto alla pattuglia. Quelli non devono essere segnalati, c'è qualche giudice di pace che la pensa diversamente. Però vedendo una pattuglia magari già ti viene un po' in mente non di rallentare. Detto, può essere un'autocivetta, e comunque sì, la pattuglia non sempre visibilissima, perché tra le altre cose la polizia locale ha una livrea diversa in ogni regione, quindi uno che è fuori regione può anche mettono non la mimetica. Adesso sono anche poco rispettosa delle autorità di pubblica sicurezza. Facciamoci raccontare cosa è successo a Nicola, perché mi sembra uno dei casi esemplari. Nicola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci racconti? Allora, io ho ricevuto venerdì 7 verbali di autovelox. Sì, esatto. Però sono la data della violazione è di luglio e agosto. Sì. Azionate sempre nel stesso autovelox, non sapevo la sua posizione, il fatto stavo sbagliato, che comunque è segnalato, perché ho visto che è segnalato, però ne ho prese 7 in quella data. Praticamente è una strada che faccio 2 volte al giorno, quindi certamente ne avrò ricevute anche altre, le riceverò altre, perché purtroppo le ho superato sempre i limiti di 2, 3, 4, 5 km all'ora, oltre il minimo, la riduzione, sì. Oltre. Quindi niente, volevo capire, mi posso tutelare in qualche modo per le altre multe che mi arriveranno, per gli altri verbali che mi arriveranno, perché se ne riceverò altre 10-15 nel stesso percorso, perché sono appunto datate addirittura luglio-agosto. Premetto che l'auto è un'auto in leasing. Sì, e quindi lei riceve un po' in ritardo la segnalazione. Sì, però sono passati 7 mesi. Sì. In 7 mesi uno non sapendo che c'è un autovelox ne può prendere certo. Vabbè, sì. Insomma, Nicola gli aspetterà uno sconto comitiva qua, questa bella comitiva di multe allora, che porta, non vogliamo prenderla in giro, Nicola, proviamo un po' a sdrammatizzare, perché chissà quante altre situazioni simili sul territorio. Maurizio, la ripetizione della contravvenzione? Allora, no, assolutamente, si può avere un'eccezione soltanto in un altro tipo di infrazione, cioè quando per esempio si imbocca una corsia vietata e allora con varie telecamere di sorveglianza per ciascun isolato, allora lì qualche giudice di pace si impietosisce e parla di stessa azione, per cui diciamo fa una volta sola, diciamo, no, così. Non proprio, cioè c'è quello previsto, l'importo previsto aumentato fino al triplo, quindi per esempio aumentato fino al triplo, però per cui il giudice può dare l'aumento minimo, esatto, praticamente sì. A parte questo, diciamo, per la velocità purtroppo nulla si può fare, perché appunto sono infrazioni singole, lo ha confessato lo stesso ascoltatore, andava al lavoro la mattina e tornava la sera, quindi nulla da fare. La cosa che mi colpisce in questo caso è il fatto che si sia molto secondo me distratti, magari lui no, perché è stato magari vittima di un autovelox che era sì segnalato, ma in maniera un po' furbesca, perché si gioca un po' con i colori, con le luci, con le grafiche, e quindi il segnale si vede soltanto all'ultimo momento. Succede anche questo, l'ho visto. Però devo dire che in generale anche autovelox visibilissimi fanno tante vittime, perché purtroppo devo dire che la gente è distratta, o pensa agli affari suoi o sta col cellulare, per cui succede. Allora a quel punto meno male che vi hanno multati, perché se in quel momento invece di esserci un autovelox ci fosse stata un'insidia, un pedone, un ciclista, un altro che sbandava, un masso sulla carreggiata, sarebbe stato un incidente, per cui meglio una sanzione che un incidente. Ti devo chiedere poi anche una precisazione sui tempi, cioè entro quanto tempo può essere contestata l'infrazione? Sì, allora sono 90 giorni, però come nel caso che abbiamo visto si va a rinotifica, perché il verbale arriva in prima battuta a chi risulta proprietario del mezzo, in questo caso la società di leasing, che poi ovviamente comunica all'organo di polizia chi è il suo cliente, e quindi decorrono ulteriori 90 giorni da quando il cliente viene individuato, nel senso che la società di leasing o di noleggio lo denuncia. Quindi la cosa che voi potete fare è vedere se questa tempistica è stata rispettata, cioè farvi dire alla società di noleggio quando ha risposto, in modo tale da vedere se poi il secondo verbale è arrivato nei 90. E allora rispettiamo tema, sì. Anche noi la tempistica, perché... No, interessante quello della tolleranza, quanti chilometri di tolleranza rispetto al limite individuato. Ma ne parliamo dopo il traffico. Ogni venerdì a 2 di Denari torna il momento poetico. Partecipa anche tu inviandoci il tuo componimento a 2didenari@radio24.it. I versi dovranno trattare i nostri temi: investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. E l'ultima parola dovrà sempre essere traffico. Hai preso carta e penna? Ti aspettiamo. La finanza è poesia. Due di denari. Per il signore che si lamenta che ha preso le multe a 81 km l'ora, ci sono 5 km di tolleranza sugli autovelox di legge, ci sono 3-4 km di tolleranza che i tachimetri delle auto segnano in più, quindi tu matematicamente non stavi facendo 81, facevi tra 86 e i 90 km l'ora. Vai più piano, fai come i tedeschi, che quando c'è 80 vanno a 78, non a 85. Italiano! Tra rotonde, dossi, salti, curve, pedoni che si buttano dentro a più non posso senza aver rispetto degli automobilisti, si vogliono fare ammazzare apposta, limiti di velocità. Ma voi siete mai andati a lavorare e avere un lavoro da fare con una macchina? Provateci invece che tutti quelli che fanno tutti questi trabocchetti sulle strade vanno a lavorare in bicicletta. Andassero in macchina a fare 300 km al giorno per muoversi, poi vediamo cosa dicono. È una cosa impossibile viaggiare in autostrada a 130 all'ora quando c'è libero proprio tutta la corsia e c'è la possibilità di andare anche un pochino più veloci. Dipende solo dal mezzo che uno ha in mano. Certo, andare a 150 km all'ora con una macchinina piccolina diventa pericoloso. Mi sembra che tutti cerchino delle buone scuse per non rispettare le leggi. Se c'è un limite di 50 lo si rispetta, punto. Caro Maurizio, come puoi ascoltare, il tema è caldo, si dice. Allora, sì. Aspetta però, mettiamola sul servizio puro così. Un ascoltatore ci scrive: io gli autovelox fissi li ho visti segnalati, non vedo mai il cartello del limite di velocità, ovvero, traducendo, spesso non è così visibile il cartello del limite di velocità, quindi uno deve un po' saperlo a memoria se sta nella strada da 50 da 70, esatto. In un mondo perfetto questo non sarebbe un problema, nel senso che se non c'è il cartello vuol dire che vige il limite di velocità generale per quella categoria di strada, per cui vi sembrerà strano, magari molte statali, non vedere il cartello, però in quel caso significa che vale il limite massimo, che è 90 all'ora. Poi siamo tutti abituati agli apparecchi messi lì dove c'è il 50, il 70, il 60, però in quel caso magari io lo vedo, perché molti effettivamente passano a 70 anche laddove c'è il 90, quindi si è creata una sorta di psicosi, e questo comunque dimostra quanto sia complesso il problema. E una parte della complessità è dovuto anche al fatto che la nostra rete autostradale è messa in condizioni critiche non solo per le indagini giudiziarie che abbiamo visto, abbiamo parzializzazioni, limiti di velocità sulle gallerie, sui viadotti, no, che hanno crisi, problemi di sicurezza eccetera, ma anche banalmente per l'abusivismo edilizio che ha tempestato questo paese per decenni, per cui voi potete avere una superstrada sulla quale magari sbocca direttamente un ristorante. Chi l'ha autorizzato nel 1975 non si sa, sappiamo solo che ha preso poi un sacco di voti alle elezioni, però è così. Per dire, manteniamola sul servizio, infatti, ecco. La tocco piano, tolleranza dei famosi, com'è, esatto. Non mi ricordo più, 5 km, 5%, non voglio fare pasticci. Allora, 5 km sotto i 100 all'ora, per cui sotto i 100 all'ora vi tolgono sempre 5 km, anche se il calcolo del 5% porterebbe a togliere di meno. Sopra i 100 all'ora invece scatta la tolleranza appunto del 5%, per cui il limite vero in autostrada è 136 km all'ora. E quindi l'ascoltatore che sostiene che nella sua contestazione c'è scritto che ha in una strada appunto che aveva il limite dell'80 km orari, lui ha toccato gli 81, ha ragione quell'altro che ha ricostruito una vicenda un po' più verosimile. Al 99% sì, tutti quelli che ho sentito lamentarsi per questo, io poi ho letto il verbale ed è come dice l'altro ascoltatore. Non facciamo in tempo a chiamarlo, ma qualcuno si lamenta del fatto delle spese di notifica. Ah già. 25 euro di spese di notifica, che dice sono anche aumentate. Questo è interessante. Allora, c'è un aumento perché sono aumentate le tariffe postali, c'è però da dire che ecco, sicuramente a volte ci sono società private che caricano abbastanza, però c'è anche da dire che in casi come quello del leasing, del noleggio eccetera, le notifiche da pagare in realtà sono due, cioè la prima l'intestatario del veicolo e la seconda che è la rinotifica, per cui diciamo che si arriva a questo. E d'altra parte le notifiche hanno queste procedure molto garantiste proprio per evitare che la gente dica non me l'hanno consegnata e adesso ho una cartella di 1.000 euro da pagare. Insomma, adesso comunque mi pare di capire che non ci possiamo più neanche appellare agli autovelox taroccati. Diciamo che è un bel po' che non se ne sente parlare, sarà circa una decina d'anni, però c'è stata c'è stato il pasticciaccio del tutor dell'anno scorso, la storia del brevetto, e non tutto è stato messo a posto anche a livello di segnaletica, però diciamo che la situazione è migliorata. In ogni caso, ripeto, stiamo parlando del sistema che è il più garantista, nel senso che l'Italia è l'unico paese dove c'è un obbligo specifico di presegnalare e di rendere visibili le postazioni, a parte l'eccezione che vi dicevo. Un'altra curiosità mia, Maurizio, ma esiste più la circostanza in cui ti viene elevata una contravvenzione, si dice così? Bravissima. Immediatamente. Cioè, nel senso che ti fermano e te la fanno immediatamente, o adesso c'è solamente la prassi della contestazione, come dire, un po' in ritardo? Allora, questa è la prassi più semplice, perché chiaramente mancano uomini e oltretutto anche laddove ci siano gli uomini, l'intelligenza artificiale è un problema, è l'intelligenza artificiale la quale poi non distingue caso per caso, però a volte diciamo ci sono anche comuni e organi di polizia in generale che privilegiano, fanno questo sforzo almeno una volta ogni tanto, e allora lì sono dolori, perché lo fanno spesso con il telelaser, quindi identificano subito il trasgressore, e nell'identificare subito il trasgressore, se è una sanzione che prevede la decurtazione di punti o anche la sospensione della patente, quello viene identificato e quindi non può dire che guidava la nonna, altro sport tipico dell'accertamento cosiddetto da remoto. Ah, sì, questo, certo, no, perché questo, cara Debora, è anche un altro vizietto che abbiamo in molti, cioè quando la sanzione è tale per cui si prevede anche la decurtazione. Quando si arriva alla decurtazione dei punti, Maurizio? Ma si arriva dagli 11 km di eccesso di velocità in su, nella fascia, diciamo, nella prima fascia sono solo 3, quindi fino ai 40 km orari di eccesso, tra gli 11 e i 40 sono 3 punti che si perdono, oltre i 40 se ne perdono 10. Però c'è sempre la cosa che c'è anche la sospensione della patente, esatto, oltre i 40 di almeno un mese. C'è sempre la cosa invece che dopo un biennio, mi pare, di nessuna infrazione si torna al punteggio originario, si ripristina la propria reputazione alla guida. Volevo salutare con affetto Paolo da Monza che ci dice: ma cosa cavolo ridete, Pirli, ricevere multe per 71 con limite 70 rode Erculo. E con questa direi che, ma in realtà guarda, a me è capitato di prendere multe per un parcheggio e mi hanno pure tolto dei punti perché non ho visto la linea del parcheggio dell'autobus e due ruote della mia macchina effettivamente stavano lì sopra. Ma tu sei proprio pericoloso alla guida, pericolosissimo. È andato così. Grazie Maurizio Caprino. Grazie a voi. A domani con il bonus facciata. Ci aspettiamo di avere un'altra trasmissione di grande successo come oggi. Vi aspettiamo, buona giornata.